anche un luogo dove non si danno degli strumenti, si fanno di corso. Il luogo del rischio c'è proprio, e disse per i suoi esperienze della scienza, e sono solo della scienza. E quindi freno, ho richiesta di maggiore integrazione, perché in Italia, differenza di altri paesi, c'è sicuramente che c'è chi vuole la linea, anche la linea del Politecnico di Milano, per quanto sia la massima autonomia, questo sono cose che sono corrette, però allo stesso tempo vogliono una attività universitaria, questo non lo tengono, è solo che sono dei fossili. Tra l'altro, tanti motivi di fine tra gli ingegneri e gli etici sono incomprensibili se non si fanno le scuole. E durante il fascismo sono una delle teorie che si vengono con il futuro e il futuro. E sono i dati di questi. Ah, i dati non culturali, perché ripetiamo, dopo avete casato, mentre prima si parla di laurea culturale, non facendo sicuramente la corona. Ingegneri escono ingegneri, sono laureati ingegneri, non sono laureati con la tecnici. E questo creava dei processi di problemi all'interno delle scuole di educazione. Quando arrivavano gli assistenti, la laureata, chi diceva dottore? Allora l'assistente, in quanto dottore, si sentiva superiore al professore che non si fa fatto lì. C'era un professore di ingegneria, sono le cattedre, che ho applicato a un altro, sono due cattedre nazionali, di ingegneria istruttiva. Quindi erano cattedre proprio da dottore. E avevano coperto di solito ingegneri, ma che avevano già anche la laurea, quindi erano quelli, ma molti altri, e invece studenti di scuola, tradizionale, di laurea, di ingegneri, più di ingegneri, erano invece giovani assistenti che erano tutti sì, e anche questo era di accordi di frustrazione, c'era un cuore frustrato, ed è solo praticamente con la riforma. Gentile che quello non ha altro tecnico, evidentemente, cercava di rendere un po' su una terra, però è la sua esistenza, la dottorale del futuro e anche la tutela legale. Perché ancora in quegli anni c'erano i giudici e i medici che non erano persone che potevano fare l'ingegnere senza. Quindi, la zona però è indicativa di Italia, se è vero che la Italia sa che è un'enorme e prevede sanzioni che chi esercita abusivamente o che esibisce abusivamente il titolo di ingegnere, se non solo è vero 128, questo se non è vero. Comunque, tornando alla città, prendo la parte. Allora io mi soffermerei un po' di più nella scuola di modo che fare concreto, magari sulla parte anche antecedente alla nascita della scuola di educazione. Ecco, io sono la scuola di educazione e una delle ultime, forse l'ultima direi tra quelle, anzi sicuramente l'ultima per quello di dire, da quelle attivate con il concetto, perché inizia nel 75, poi c'è solo un anno, ma poi dopo il soldo. La popolazione e anche della periferia si porta non è che c'è anche Padova non è proprio tra le prime però ecco, anche Pisa era attivato ma Pisa poi la cosa viene praticamente a scadere la ricorderemo solo negli anni e allora cosa c'era? Qual era la situazione a Bologna? Ma la situazione a Bologna era più o meno quella sia qualche analogia sia qualche differenza che si può trovare rispetto al posto della Zaccaresi. Naturalmente anche Bologna nel 800 deve fare, quando dobbiamo ancora dobbiamo fare riferimento a una serie di progetti, di quel modo proprio del 1917, della situazione di ingegneri, di porti, poi di vari aree quella collegata assolutamente all'università di Bologna, però è una cosa interessante che la scuola partita si seguiva con i corsi di matematica e la laurea temporale. Dopo la legge Pellegrini c'è questa, sono laureati direttamente, però non devono fare questo esame di educazione. Così dovrebbe essere salato, mentre dottori però gli viene messo l'esamista. Poi, solo, secondo te, c'è la possibilità di retrocatare il concesse anche a quelli che se, tutti quelli che si erano laureati prima del 23 e protestavano, erano sicuramente tutti quelli vivevano, anche se non se si proviveva ancora per i primi anni da parte di studenti, vedete che lui dice, credo che faccia una legge di professione di genere, perché è comunque, per quanto riguarda la storia bolognese, naturalmente si fa riferimento a tutti questi tipi di progetti di metropoli, eccetera, tutte queste cose che lui ha pensato. Ci potrebbe essere però una certa, ecco, una fretta, potrebbe essere questa, che mentre a Ferrara, a Torino, ma direi anche da sì. E se la gente ha portato la parte di poi, giustamente, la scienza matematica, la parte di sempre, poi così scientificamente matematica, in Europa per avere effettivamente l'Italia priorità, probabilmente una cosa che non si saprà, insomma, infatti si deve venire così, serve quasi sicuramente a tornare in ingegnere, insomma, l'idea. Conoscono anche altre informazioni, questo è l'identità, possono essere corpi o suoi particolari, dove ci sono. Ma invece la critica che viene fatta perlomeno dai docenti, dai primi docenti della scuola di educazione, è piuttosto un segno contrario. Cioè viene criticata perché in fondo non dà sufficienti garanzie proprio dal punto di vista di un sistema. Cioè se si dice così, si dice che non sono mai una matematica teorica. Ma non è così tanto, è stata una serie di funzioni che sono messe in produzione di quindi vedono l'attivazione della scuola di applicazione come un momento di proprio di modernizzazione in senso pratico. Allora, il collegamento con l'università va bene, però questa scuola deve acquisire una propria professione professionale specifica e arricchirsi nel semplice. Comunque, una cosa interessante da osservare questo periodo, se i figli non la nascita sulla pianificazione, è che tra la situazione che caratterizzava l'ufficio e poi la nascita di questa scuola di pianificazione, proprio perché non avviene adesso la parola del 61, perché io parlo del 61, del 60, che viene eseguita nella legge del 59, e Torino parte prima, poi ora Bologna invece parte completa, parte in realtà nel 1977, e allora c'è tutta una specie di terra. Cosa succede mentre a Torino c'è già la scuola di educazione, a Milano c'è tutto il tempo superiore e piano piano viene attivato anche a Torino? C'è una scuola che nasceva sostanzialmente da un decreto, anche questo del 59, che era quello del governatore generale della Romagna, che ha detto nel 5. E che è stato poi recepito dal nuovo Stato. Ecco, che carattere aveva questa cosa? Innanzitutto era sostanzialmente un ripensamento della rete della matematica, è vero che i futuri ingegneri non facevano però l'unità già più importante. Conseguimento della laurea dottorale e libera parte della matematica. Quindi non era proprio una laurea, la matematica rimaneva, però anche era una legge che stava a questo. Poi naturalmente, quando aveva preso, era così, però c'era questa. Che cosa studiamo in questa scuola? In questa scuola, che però era a fronte di promessa, stava dentro. Dunque, al primo anno studiamo storia naturale, fisica sperimentale, architettura civile, che però erano sia dentro che parte naturale, che sia quello che si era separato. e poi l'introduzione al campo. Al secondo anno, dicevo, meccanica, idraulica, ottica e astronomia. Calcolo sul libro. Agronomia teorico-pratica. Al terzo, le stesse discipline del secondo, con la sola variante di istituto di civile al posto di calcolo sul libro. Al quarto, ecco, vi facevo già domani, che pensavo a una situazione ancora precedente, qui invece già al quarto anno fanno già una pratica di uno studio di ingegnere accorbato, che è quello che avevo detto. Economia pubblica, agronomia teorico-pratica, che si stessa su economia significativa, perché naturalmente il tema è stato già visto, è venuto a che non lo so, anche e lui che non riesce mai ad avere la sezione industriale prima di entrare. La sezione industriale è la parte. Riesce ad avere solo uno degli elementi, una specie di sezione industriale, ma è la caverna, è una scuola di chimica industriale che per un certo periodo laurea gli ingegneri chimici. Poi i chimici dicono, noi siamo chimici, la sezione di ingegneri ha fatto questa esperienza. Erano sempre lì per averla, ma doveva dire anche grossi investimenti, quindi si cercava così, anche cattedre, e l'italiano era già molto più forte. Penso non volava neanche le forze locali, anzi, le forze locali per molto per ridimensionare e attivare il corso della scuola di agricoltura, fanno la grande, se ci sono anche noi, è una scuola che non si fa la grande, che non si scienze fisico-matematiche. vigenti, pochissimi, di storia attuale. E quindi, e tutto poi dava, naturalmente, però rimangono anche questi vari testaggi, la ricetta, tutto questo. Ecco, nonostante queste indicazioni, adesso mi trovo con il dottor Nobile, ovviamente la sua indicazione era che si fosse studiata la sua indicazione, su fine. chiari e si possono capire ma vedete ancora nel 7 mentre in alcune università sono già anche gli elettricisti in altri hanno anche la diretta tecnici che sono gli elettricisti noi abbiamo potuto attivare solo un corso grazie a Renati che va a attivare le lezioni addirittura sono solo le novità cioè, così come è stato così sovrintato ad avere dei geni industriali che anche quello non era previsto insomma, per le altre cose cioè, fare una cosa abbastanza frequentata tantissime, forse saranno solo Torino e Milano che riusciranno a fare anche 30 e 40 proprio qua dall'aeronautica, però insomma, e allora finalmente c'era dentro l'ingegneria, perché prima non lo era, era tipica in questo senso, che quasi sempre direi la sua storia era sotto la giurisdizione del Ministero di Cultura, Industria e Commercio, che non sotto la giurisdizione che invece aveva eliminato. La famosa questione del museo industriale, anche questo museo industriale fosse la cultura e Industria e Commercio. Io avrei finito, così c'è ancora la buona minuto, qualche domanda. Visto che ti faccio subito una domanda e poi piacerò per sempre, che è quella, se fosse possibile magari che tu mi fornissi l'elenco di questi ingegneri che andavano a Torino, perché proprio sì, una delle caratteristiche della scuola di adesso se ce l'ho, forse qui non ce l'ho, no, però, sì, però sicuramente ti posso saper dire. Perché appunto si vede proprio nella seguendo l'andamento delle iscrizioni che c'è questo fenomeno. Sì, ma tantissimi, cioè ci sono tantissime persone che vengono da fuori, magari al secondo anno, al terzo anno. Io di questo non ne parlavo, ma molto spesso gli scambi arrivano anche dai corsi della E quindi non capire se qualcuno di loro però fosse un ingegnere già laureato che veniva a prendere la seconda laurea, oppure semplicemente bisognerebbe capire, spiegherebbe anche questo fenomeno di ricompimento. Trovo un po' per le... E viceversa, io ti posso poi dire se queste persone ecco, che mi facevano, se restavano lì, se si laureavano. Io una domandina velocissima, non ho mai sentito citare la vita lucida, mi chiedevo se non sono delle scuole di applicazione, se si deve insegnare la vita lucida. Mi sono messo in una citare in Francia, c'è la ricordo le Smith e c'è la ricordo il Mine, e poi c'è la ricordo fatica del Vinti Montier, e una delle grosse perdite, che secondo me che si in Piemonte nel 33-37, quando e l'insegnamento appunto viene trasferita all'università, proprio perché anche in Piemonte c'è quel processo di normalizzazione, a un certo punto di prevalenza dell'università sulle scuole speciali, appunto l'età della restaurazione, è che di fatto si perde l'insegnamento non solo della tecnica mineraria, cioè delle tecniche non più applicative, ma anche della tecnologia, e che può essere anche, mi sembra, il risultato proprio modello di sviluppo poco imperialista che c'è in Italia, dove naturalmente l'ipotesi appunto di una siderurgia e di una metallurgia nazionale è scartato di scuola. Infatti, nel momento in cui viene a prevalere un certo modello di tipo imperialista, ecco, c'è forse qualche insegnamento in chimica metallurgica, ecco, però questo facevo rientrare. Thank you. primo anno, metallurgia e arti minerali, invece non c'è niente del terzo anno. Una cosa interessante, un po' invece. Però la 37 non la 60. C'è solo mineralogia e università. Però non fa parte di, non fa parte degli insegnamenti degli ingegneri, fa parte di queste, di questi corsi di scienze naturali. E invece no, una volta fa parte degli ingegneri, ma la mineralogia invece non compare mai la metallurgia. Qualche volta la mineralogia è in alternativa con la geologia vulcana, perché devo dire solo che sono gli ingegneri civili, e quindi su quello non avrebbero voluto, ma infatti la metallurgia, comunque interessante questo, è una delle distanti discipline previste in questa famosa sezione industriale che volevano attivare finalmente nel 2017, ma che poi non si portano le cose vanno avanti. Non perché sia un argomento di corso di ingegneria, ma perché ho cercato di pubblicare alcuni documenti relativi all'organizzazione istituzionale. Tanto da battuta, Bologna era una traduzione sbagliata, non era Milano, era Bologna stessa che si era nominata per le sue mani. A Luigi Cremona, insegnante a Bologna, aveva riportato una impressione talmente scandalosa che lei non poteva essere stata chiamata dal ministro a fare una relazione per l'Unione Europea, che diceva che era Bologna chiudeva, nemmeno più quando. Quindi Bologna aveva anche un po' ragione, perché l'Università di Bologna, diciamo, nella serie, mentre il Turchino sia, insomma, era un'università, allora nel 700, nonostante che, come dire, era perso, diciamo, l'aggancio con le riforme settecentesche, perché via che non erano riusciti ma neanche a farla, a riformare i collegi elettorali, però era ancora un'università, diciamo. Nel 700, però invece nella prima metà dell'Ottocento l'Università di Modena è più importante che l'Università di Bologna, ma anche più studenti dell'Università di Modena. L'Università di Modena è anche una caduta in termini di studenti. Questo però ha anche riflessioni di Luigi, perché la 31 è tanto la prima restaurazione, quasi tutti furono fatti fuori. E poi dopo qualcuno si salvò, però nel 31 ebbero un altro. E poi ci sono rimasti a tirare la messa dopo un pezzo di spesa. Era un rimasto poi l'unico professore di matematica di un certo livello, di una certa notorietà europea, era Domenico Chivini, ecco, della scuola di Via, che lui effettivamente era uno che aveva avuto anche rapporti scientifici internazionali, però non era, però insomma era un professore dignitoso. E lui lasciò perché non trovò fedeltà. Effettivamente un livello di Bologna, principalmente per motivi politici, ecco, nella prima metà del 400, poi che probabilmente anche tutta la storia del centenario, il corso di laurea in matematica, come corso completo che porta alla laurea, si ha la matematica nell'86, sì, ma è infatti proprio nell'anno, proprio nel 75, ma c'è quello, avevano perso anche la possibilità della laurea. Prima parte ingegneria, poi parte matematica nell'86, 87 quando arriva la Ferrara, praticamente l'università di Bologna come nuova realtà nasce con centenari, anche che c'è la rifondazione, c'è la rifondazione, la rifondazione portata. E poi c'erano un paio di tappi con l'ingegneria. Il primo nel 75, questa operazione, si fa un'altra un grosso. Tanto perché si sente bisogno di fare questo lavoro, cioè c'è una contenzione tra l'università. Cioè il genere civile per l'appunto si rifiuta di ammettere un corso del genere di lavorare in chissà cosa, perché dicono per forza no, e dopo che loro non lo ricordiamo. Bisogna anche considerare la sanità dei ministri, il consiglio spaventa con i pubblici, con gli appunti di istruzione, cioè i vertici della questa storia. Allora si impone questo tentativo di fare un regolamento, Bondi chiama i primi lettori del fuori di integrazione. Una cosa curiosa che poi da questi lavori che mi hanno e che contraddice un pochino la volontà secondo cui è imprimata una cultura classica, umanistica e retorica che arresta lo sviluppo del socialismo scientifico, è che il ministro Bologna, amico di Manzoni, il dottore Repetto, è molto più avanti dei predecessori della Costituzione. Sono loro che non vogliono. considerare la tendenza a quello che ti dici, non è lui, che non è la politica e l'amministrazione umanistica, sono i nomi della scienza. È vero che il segretario generale di Mondi, che dirige la politica nazionale, ha detto basta, le esigenze industriali del caso, basta e basta. Perché bisogna dare a questo problema anche le spese. Le spese sono anche le spese. Sono prendere mantenere qui 10 persone a finta di studiare. Cioè, andiamo a Milano, tornate all'università, è una gentile, un'altra persona da qui. Non possono possedere ricerca. E quindi per avere finanziamenti privati ci voleva ogni volta un paio di una legge apposta. Se un uomo è lasciare in Italia, il Parlamento deve fare perché le università erano considerate enti periferici dell'amministrazione dello Stato, in quanto molto tanti per stare di ritorno. Quindi se uno voleva dare soldi a Paolo, non ci poteva dare. Se era un'università per tecnico privato, anche in questo, per la di non ce l'aveva. Quindi sono dinamiche assai complicate.